Questo programma è in collaborazione con stymusic.com. Viaggi del lupo. E torniamo in onda per una nuova puntata di Wolf Trips. Oggi si torna veramente alle origini perché sono qui da solo, mi hanno abbandonato tra influenza e defezioni varie, però vabbè dai, dovrebbe arrivare qualcuno. E oggi è una nuova puntata, purtroppo settimana scorsa siamo stati bloccati dalla neve, sembra strano dirlo, effettivamente a febbraio ci abbiamo avuto questo problema con la neve, niente, abbiamo dovuto anche rinviare l'intervista con il nostro ospite che tra l'altro ci stiamo già sentendo con Claudio Iacono, che ascolteremo qualche brano e faremo anche due chiacchiere con lui. Tra l'altro non è l'unico ospite di stasera, visto che volevo recuperare un po' l'ospitata della volta scorsa. E vabbè, però l'altro ospite non ve lo svelo, dai, così almeno teniamo un po' di suspense. Partiamo subito con un po' di musica proveniente dalla net label Nuages Records. Il nostro viaggio nelle net label continua, ormai penso che siamo diventati un punto di riferimento anche un po' per tutte queste etichette che nascono su internet senza troppe fronzoli, diciamo, burocratici, però producono comunque musica di qualità. Andiamo ad ascoltarci Coure con Sax Paradise, che è un brano misto tra la down tempo, il trip hop e il jazz, un brano giusto per iniziare la puntata. We'll be right back. E questa è l'etichetta Nuages Records da Orlando, Florida. Questo brano è contenuto all'interno di una compilation, possiamo dire, si chiama Elements la compilation, ed è prodotta da tale Eric Jackson. In realtà non ho molte notizie su di lui, se non altro è contenuta in una serie di brani che loro stessi definiscono una compilation di qualità a supporto della cultura hip hop diffusa un po' nel mondo. Tra l'altro all'interno di questa compilation troviamo degli artisti che abbiamo già suonato all'interno di Wolf Trips, tra cui anche Sikrat, che saluto, abbiamo avuto modo di intervistare nelle puntate scorse, e anche brani di Frenic, che in realtà è un artista che abbiamo messo più volte e non è male, quindi non è nuovo a chi ci ascolta. Andiamo avanti con sempre un po' di musica proveniente, ci spostiamo dalla... intanto sentite i vari click perché stasera non ho un supporto di altre persone che parlano, quindi devo fare tutto da solo e quindi sentirete il click del mouse. Ci spostiamo sull'etichetta Dead Records, o Da Records, non so come pronuncia, adesso io devo fare del mio meglio perché non ho le mie spalle per quanto riguarda la pronuncia inglese, quindi mi devo un po' arrangiare come si deve. E ci spostiamo quindi a Parigi, in Francia, per questa etichetta Da Records, che è nuova, ha prodotto musica, appunto delle compilation, ha una qualità particolare, nel senso che non è proprio pulita il suo stile di musica. Sono molto sporchi i suoi brani che abbiamo ascoltato fino adesso. Magari adesso vediamo con questo brano che fa parte di un album che si chiama Kill Loops di 2DK. Poi ovviamente metteremo le playlist perché mi rendo conto che è difficile poi interpretare quello che si dice tramite la radio a livello di pronuncia e traslazione con l'inglese. E il brano che andiamo ad ascoltare, di preciso, ha un nome un po' particolare perché si chiama Unicorns in Paradise. E la particolarità di questa etichetta è che produce brani cortissimi. Infatti il brano che andiamo ad ascoltare dura ben 1 minuto e 35, quindi dobbiamo ascoltarcelo tutto di fila. Come dicevo, i brani della Dead Records sono cortissimi, però sono molto particolari, hanno un po' un beat strano, quasi un hip hop astratto, un po' come avevamo ascoltato un po' di tempo fa con l'artista Sikrat, un beat un po' particolare. Sa più di base nel caso, cioè sembrerebbe quasi, cioè non ha una struttura come canzone, sembra più una base musicale che poi dopo si deve un po' evolvere, però loro li producono un po' tutte così le canzoni, cioè, avranno un loro senso, un loro stile, un loro taglio, mettiamola così. Ci spostiamo, intanto che aspetto che arrivino i miei compari, eccolo qua, uno è arrivato, ci spostiamo intanto nel Messico con un'altra etichetta che si chiama Poat Records, e l'ultimo brano che hanno prodotto nel 7 gennaio 2019, quindi fresco fresco, è di un artista che si chiama Elon Musk, che sembra quasi un acronimo di Elon Musk, che è un po' più famoso. Il brano che andiamo ad ascoltare è Odyssey, ed è un brano un misto, loro producono molta anche elettronica, trip hop o ambient. Andiamo ad ascoltarcelo. Yeah. E intanto mi ha raggiunto Fabio. Ciao. Ciao Adome, sono arrivato dal freddo e dal gelo. Porca miseria, si vede, si vede. Intanto mi ero abituato quasi a fare il programma da solo che non ti ne hai calzato il microfono. Ho avuto un altro forfè per stasera. Stasera è la serata delle defezioni, perché anche il buon Tony e la Cri, la Cri è a casa con l'influenza, Tony è a casa con il mal di denti. Siamo a posto, dai. Beh, ma rimaniamo noi, dai, a reggere sì, la baracca. Sì, sì, sì, va bene, va bene. Il capitano Domenico e il rematore Fabio. E che fa freddo. Io sto congelando, vedi. Fa freddo. Bestia. Va bene, dai. Tutto a posto, Fabio, a parte il freddo, il gelo. A parte il freddo, dai, tutto a posto, sì. Dai, io e i miei due pinguini qua a fianco. Beh, c'è il pinguino lì sotto che abbiamo acceso, però per riscaldare, dovrebbe essere quel pinguino dei lunghi. Sì, ma questa radio è bella rude, così che ci piace sì, a noi. È fredda d'inverno e calda d'estate, è proprio sì, è giusto. Top, è il top. È il giusto, è il giusto. È qui che si vede la passione radiofonica. Già, con l'avversità del tempo noi andiamo avanti. Infatti, ma infatti. Che cosa stavamo ascoltando? Perché sono arrivati in ritardo. Ma abbiamo ascoltato un po' di musica varia e avariata. No, non è vero. Un po' di musica varia. Intanto che aspettiamo, adesso tra poco ci collegheremo con stasera abbiamo ben due ospiti. Cioè siamo in due in radio che non so, però abbiamo due ospiti quindi... Esosi stasera. Esosi, esosi, esosi. Infatti tra poco inizieremo a metterci in contatto e intanto andiamo ad ascoltarci un altro po' di musica. Però il problema è che ho scelto tutta tra virgolette la prima parte della playlist, tutta roba così tranquilla, mogia, quindi non ci carica, non rimaniamo freddi ancora. Non ci scaldiamo. Questa è, tra l'altro stavo leggendo, questa qua è la prossima net label, si chiama Fusion Net Label ed è la provenienza, poi non so se è vero, però la provenienza è Antartica. Quindi, scritto proprio Antartica. Bella proprio fresca. Glaciale direi più che fresca. Allora, il pezzo che andiamo ad ascoltare è di Audio Physical e il titolo è, perché poi stasera non ho i traduttori ufficiali, quindi non so, io la dico come viene. Ci possiamo provare noi. Ci provi tu? Allora. È questo, Penso che sia francese. Sì, sì. Ok. Le chant dalle murs. Sarà il gatto sul muro? Non lo so. Lasciamo questo dubbio. Qu'est-ce que tu fais sur ce monde? Pose pas la question, t'auras pas de réponse. L'important c'est ce que tu dépenses. Reste debout, faut pas que tu t'étends. Non. Du mal à respirer avec une chaîne autour du cou qui t'étrangle. Ton voisin se plaint, tous ces étranges, il prie, foutez le camp. Poussez-vous d'ici, c'est chez nous, j'ai le plan. Pour le prouver, d'autres sont même prêts à faire couler le sang. De victimes innocentes, la vraie cause c'est ses actes, ils s'en foutent, il me semble. C'est la peur qui les pousse à faire le pire. Mais pas la même qui pousse les jeunes à faire du pas se laisser faire, Berlin tes citoyens désespèrent, même les croyants ont perdu la foi. Parfois, on dirait même que les enfants ont perdu la joie. À croire que le diable a renversé la croix. Non, c'est juste un politique qui vient chercher ta voix. A man in the mirror, I caught inside the wall. Regret I never felt in my life because my heart is cold as stone. I'm a thief, hiding in the hole. I'm the chills up your spine, I'm the shot of your bones. I'm a ghost, a shadow without a name. Génération flip, les lèvres collées sur le slick. Pour ramasser du fric, peut pas se contenter d'un petit peu. Faudrait trouver du taf alors qu'il y a même plus place assise. Pourquoi l'argent sale fait venir mes frères comme une pipe? Frérot, c'est si facile de rentrer dans les stéréotypes. On cherche les plans de thunes, dans pas le temps pour leur politique. Ceux qui veulent nous faire avaler n'est pas comestible. L'Europe en train de s'effondrer, prend ton genre à raison flip. Le micro, mon capital comme le corps pour une strippeuse. Y'a plus de quoi rigoler dans l'industrie de la slick. Aujourd'hui, ça charge et ton album ne vaut qu'un clic. Ton disque pour ton label, une mauvaise investition. Liston, quand ça devient flou, faut changer de perspective. La galère, je connais trop bien, je pourrais même t'en faire l'esquisse. Le bis, toutes ces pensées malsaines qui pervertissent. Le en argent ou en matériel. On t'écarte la famille depuis la maternelle. La télécom, babysitter, t'as lavé la cervelle. Le manque de sous, la cause pour les choses qu'on peut pas se permettre. Tu réalises vite que la réussite n'est pas certaine. Beaucoup comme toi grandissent sans aucune présence paternelle. Y'en a qui trouvent refuge dans une infusion artérielle. Vabbè dai, era francese, anche dalla, dal reparto francese. Te poi hai detto che sai bene il francese, quindi diciamo potevi fare una traduzione simultanea, no? Era affezionato alla scuola, ho fatto diversi anni, quindi ho fatto quasi 10 anni di francese. Porca miseria, ma ti sono serviti a qualcosa o non serve a niente? Beh, quando vai in Francia... Diciamo perché che... vai tutti i giorni in Francia, no? Quando capita che vai in Francia in vacanza, sai che comunque dire bonjour. Anche perché i francesi sono rinomati per, diciamo, snobbarti se non parli in francese. Io non parlerei dei francesi in questo periodo perché non scorre buon sangue. No, no, ma noi di Wolf Trips siamo international, quindi bravo, non ci interessa. Noi viaggiamo il mondo. Cioè, abbiamo ascoltato adesso il brano di un'etichetta che viene dall'Antartico. Cioè, scritto Antartica, voglio dire. Antarctic. Cioè, più di quello, veramente. Bene, tu hai avuto un'esperienza qui in radio quasi tipo Trainspotting, giusto? Sì, sì, sì. No, più film horror. No, ma una volta c'era proprio... Dobbiamo raccontare, adesso faccio un po' un racconto descrittivo, no? Sì. Fa freddo, ragazzi, quindi ma è normale che quando fa tanto freddo poi un uomo gli scappa quella cosa che si chiama din din. Dan dan. E qua c'è un bagno, il famoso bagno della radio, no? Allora io suggerisco sempre a tutti gli ospiti di venire, non fare l'intervista su Telefonica per provare questa cosa, no? Non tanto per venire qua a vedere la radio, farla. No. Io no, darei il consiglio: se venite qua di persona, fate la pipì a casa. No, ma comunque la situazione è migliorata negli ultimi tempi. Quindi... Però è rimasto quello blò. Il mito, dai, è rimasto il mito. Il mito che quando vai in bagno con quella luce tenue, pensi che adesso esci la tipa di The Ring dallo blò e dici: lo faccio veloce. Ma è una tattica, perché almeno non rimani tanto in bagno, capito? Bravo, bravo. E così tutti è una tattica fatta in questo modo. Andiamo, vediamo un po' cosa andiamo ad ascoltarci adesso. Intanto, bravo. Quindi diciamo che a parte il freddo ci siamo un po' ripresi. Sì, dai, siamo un pelo scaldati. Insomma, io c'ho ancora freddo. Faccio un paio di squat. Ecco, bravo. Va bene. Abbiamo ascoltato quindi prima l'etichetta Fusion Net Label. E invece continuiamo, ci spostiamo un po' sul dub con questo brano di Dub Riots plus Indamouse. Il brano si chiama Creation. E penso che sia un po' di musica dub. Ma penso dal titolo penso proprio dub. Di sì. Quindi, ti ripeto, ancora non ci scaldiamo con la musica, però iniziamo a incrementare un po' il beat. Thank you. Collaborazione con stymusic.com. Wolf Trips, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. E dopo la pubblicità siamo tornati con questo brano di Claudio Iacono, Tripack sarà. Intanto dovremmo avercelo anche al telefono. Ciao Claudio, ci senti? Sì, ciao. Ciao, ciao. Oh, ti sentiamo perfettamente, perfettamente. Ascolta, presentaci un po' il tuo progetto, le tue produzioni. Tipo, vabbè, questa qua ho visto che è uscita sotto Noisy Beat. È un vecchio progetto, però, sì. Però ancora attuale, mi sembra. Infatti l'ho risentito con piacere. E avevo uscito abbastanza tempo fa, non me lo ricordavo nemmeno, all'inizio non mi conoscevo, però non è per niente male anche questo. Il mio progetto, niente, si basa sulle mie idee di fusione con quelle che sono le sonorità elettroniche con altre contaminazioni in più indie. e cerco di sviluppare in questo senso i miei progetti. Non so se si percepisce questo. Ma allora ti dico, a me è piaciuto molto questo brano, ma beh, non era poi vecchissimo, dai, 2016, tutto sommato, tre anni, dai, tutto sommato ci può anche stare. Non so se poi dopo, in realtà magari l'avevi fatto prima e poi dopo te l'hanno rilasciato su Noisy Beat. Sì, dopo. Sì, poi tra l'altro l'avevo fatto prima e poi così, come succede in genere. Infatti, infatti adesso ho delle altre cose che chissà quanto. Immagino. Ma ascolta, ti voglio chiedere un'informazione così, visto che noi comunque trattiamo un po' di net label, no? Il fatto di pubblicare su etichette comunque che pubblicano la tua musica in modo gratuito, come ti è sembrato? Non lo so, dacci un po' un tuo parere, un tuo feedback. Ma il mercato di Gio, sono abbastanza contrario al mercato digitale, però questa mi sembrava comunque una soluzione, come posso dire, più underground, che rispecchia maggiormente uno stile di musica che è diverso da quelle cose Beatport, Traxsource, secondo me poteva essere il canale giusto. Quindi lo vedi come un... Quindi anche, sei riuscito anche comunque a sfruttarlo in positivo questo tipo di canale? Sì, decisamente. Quella è la cosa importante. L'ho sfruttato decisamente, perché poi da quei progetti ne sono usciti fuori degli altri. All'inizio, diciamo, era abbastanza difficile realizzare delle cose e stamparle, come succede in genere, che si mandano 200-300 mail per avere nessuna risposta. Poi invece dopo questi progetti è accaduto l'inverso, che non riuscivo più a stare dietro io invece alle richieste, e dopo ancora invece sono arrivato a chiudere dei progetti con diciamo il supporto che preferisco, che è quello del vinile, con le uscite che ci saranno a breve. Ah, quindi avrai anche delle uscite su vinile, vedi, quella è una cosa per... mi piace molto questo risvolto, dimmi. Un ottimo risvolto, decisamente, sì, naturale tra l'altro, cioè, quindi è stata un'interazione naturale, la giusta evoluzione delle cose in questo momento. Volevo chiedere, da quanto tempo è che produci musica? Saranno 6-7 anni, però devo dire che solo ultimamente sono riuscito a realizzare dei progetti che personalmente mi piacciono. Li senti più, cioè, più non tuoi. So, per esempio, la classica domanda che molti si fanno: suoneresti le cose che hai prodotto? Sì, infatti. Forse inizialmente, prima di quella che abbiamo sentito, forse no, adesso sì. Ah, ho capito. Sì. Diciamo ultime produzioni sei molto più soddisfatto di quello che hai creato? Certo, sì. Certo. Molto più soddisfatto. È una bellissima cosa, perché comunque ti rende realizzato, cioè da artista. Sì, certo. Ascolta, adesso volevamo ascoltare, poi dopo rientriamo anche dopo, così lasciamo anche un po' i tuoi contatti per sentirti. Un altro brano, invece, forse uno degli ultimi, perché è Garista con, penso, Alt Beats. Alt in Beats, sì. Artista di Durazzo. Questo mi è piaciuto veramente molto. Andiamo a ascoltarlo, poi dopo ci racconti magari qualche aneddoto su questo pezzo, qualche informazione in più. A dopo. questo è un altro brano di Claudio Iacono con Garista, che abbiamo ancora al telefono. Ci sei, giusto? Mi viene, sì, sempre, certo. Mi viene sempre un po' di ansia con questo telefono, che ogni tanto vedo cose strane muoversi. Hai paura, no? Della caduta della linea. Mamma mia, sì, sì. E, no, ti chiedevo un po' di informazioni su questo brano che hai prodotto. Sì, questo brano l'ho prodotto insieme a Altin Tilla, che è un bassista, un polistrumentista in Albania, di Durazzo, e abbiamo sviluppato l'idea ascoltando un disco dal quale poi abbiamo estrapolato dei campioni che, anche se non si percepiscono, ci sono dentro, di un album di Coscia e Trovesi, che è una cosa jazz più o meno. E da quei campioni Alti ha realizzato delle linee di basso, e poi ci sono capitati, non mi ricordo per quale ragione, da qualche vecchio vinile, quelle voci. Ah, sì. Su un disco di A Cappelle bianco, tra l'altro indefinito, quindi non si riesce neanche a risalire che cosa sia di preciso. Beh, comunque ci stanno bene. Ce l'abbiamo messe dentro. Ci stanno ecco bene. Il progetto come è nato. Ascolta, poi avevamo un altro po' di curiosità. Aspetta che te le chiede Fabio, cioè, stavamo parlando prima fuori onda. Di dove sei? Formia, che è tra Roma e Napoli, non so se. Ok, sì, un po' si intuiva. No, ascolta, su questo pezzo qua devo dire una cosa: che è fatto molto bene nel suono, cioè la parte anche finale, secondo me, di master e tutto quanto è fatto, secondo me, molto bene. A differenza magari di qualcos'altro che ho sentito, che magari bel pezzo, però magari la parte finale di chiusura del pezzo è lasciato un po' andare. L'avete fatta voi? L'avete fatta fare fuori? No, te ne occupi direttamente tutti, tu? Per tutti i master ci rivolgiamo sempre a degli studi professionali. In quel caso l'abbiamo fatto a Londra, il master. Ah. E infatti suona benissimo. Sì, sì. Gli altri neanche li abbiamo fatti noi. Dipende sempre dagli studi ai quali ci siamo rivolti. Ne parlavo prima con il capitano. Alla fine nello studio personale sviluppiamo l'idea. Per sviluppare pure un suono pulito ci vorrebbe un'altra vita per curare quella certo, parte personalmente. Certo. O no? Sì, concordo. Serate che hai qua in cioè che è in zona, no, che zona è dalle tue parti. No, perché prima ho sentito la pubblicità a Gallarate. Anzi, siamo, no, è così, scusa, a Gallarate. Gallarate. siamo un po' lontani, quello sì. Il paese dove riposano le nuvole. Ho numerose serate, spero di allargare le mie uscite, speriamo, con le produzioni forse può essere il veicolo giusto. Sì. Tra l'altro hai detto una cosa che mi è piaciuta veramente molto, cioè il fatto che comunque sei partito a lanciare qualche brano su Netlabel, e poi se ti hanno hai avuto un po' di chiamate, di contatti, quindi vuol dire che è un buon veicolo Netlabel, tutto sommato, non è... Sì, no, allora volevo dire questo di preciso, cioè è un buon veicolo la Netlabel, cioè soprattutto le cose che escono su Bandcamp, secondo me hanno un come si dice, un fascino diverso, perché poi forse sono più selezionate, c'è più cura e c'è meno quel marasma che invece trovi su Beatport, Traxsus. Guarda, mi trovi completamente d'accordo, perché per fare il programma tutte le settimane io faccio proprio ricerca dalle varie Netlabel, e poi la maggior parte poi è Bandcamp che mi fornisce i brani per il programma, quindi sì, sicuramente d'accordo. E ascolta, per chiudere, poi ti lasciamo, che so che hai una serata stasera, quindi sei un po' preso. Sì. Volevo lasciarti un po' di spazio per dare i tuoi contatti, dove possiamo ascoltare le tue produzioni o seguire magari se hai degli eventi, qualcosa del genere. No, più che altro volevo menzionare le uscite che ci saranno a breve. Va bene. Secondo me sono molto significative, e quindi ci sarà tra l'altro dei contatti naturali che non ho cercato io, quindi quello che dicevi prima, la giusta evoluzione dei progetti sviluppati con le Net Label, che poi hanno portato a questi risvolti ancora più altrettanto interessanti sul supporto del vinile. Quindi da quei progetti, e adesso ci sarà un'uscita a breve, spero già a marzo, su Giant Record. Abbiamo realizzato con Altin una traccia che sarà inclusa in una raccolta che uscirà in 300 copie limitate in vinile in distribuzione mondiale. E poi invece ho chiuso personalmente un altro EP che uscirà su Petra Beat Record di Luis Di Summa, con un remix di Marco Corvino, che uscirà per aprile, sempre solo vinile. Bene, interessante. Non ci saranno file. Una bella evoluzione, mi è piaciuto, mi ha fatto proprio piacere sapere questa cosa. Va bene, noi ti salutiamo e ti ringraziamo di essere stato con noi dopo varie evoluzioni che abbiamo dovuto. Dopo varie evoluzioni. Settimana scorsa noi non riuscivamo a muoverci. Adesso non so da te come era il tempo, ma da noi era pieno di neve, non ci si riusciva proprio a muovere. Cioè quasi. Appunto, dicono. Infatti, secondo me, quando ti ho mandato il messaggio che non riuscivo ad andare in diretta, mi ha detto: ma questo dov'è che abita? Però effettivamente era pieno di neve da me. Va bene. La montagna. Noi ti salutiamo e andiamo ad ascoltarci poi un altro tuo brano che è Something Somewhere. Ciao. Ah, ciao, sì. Ciao. Ciao. Va bene. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and a part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. music.com Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. To be dead, and she came in through my days. All of those words that I've read never told me how not to be scared. She came in through the desert sands, just like sunlight to warm my cold hands, shining darkness in the rise. Once I was afraid to be mad, a little flower that grows so sad, lost in the passing of time, never thought how to complete this rhyme. She loves the songs I can sing. She told me I'm not to be afraid of the dead, like a breeze slowly blowing in spring. E abbiamo cambiato completamente registro, caro Fabio. Io farei un applauso per questo pezzo direttamente. Ecco, adesso comunque possiamo farglieli direttamente a lui i complimenti, perché ce l'abbiamo direttamente in onda. Ciao, ci senti? Ciao, vi sento benissimo. Oh, perfetto, perfetto. No, guarda, stavamo commentando, forse hai sentito anche i commenti sotto che facevamo, perché si sente la fuori onda. Stavamo ascoltando il pezzo, stavamo valutando effettivamente, a parte la qualità acustica veramente bella, il pezzo mi piace molto. Ma tu sei, così ti lancio subito nel mondo radiofonico. Io sono Francesco Perra, in arte per i Frank. Ok. Sono un musicista che di solito fa qualcosa un po' diverso da queste canzoni, che comunque appartengono al mio modo di concepire la musica, ecco. Sì, molto, diciamo, potrebbe essere un po' minimalista nell'arrangiamento, però secondo me ha anche un certo livello magari più personale, ecco, sa più di musica personale. Secondo me è veramente un bel pezzo, semplice ma fatto veramente bene. Dall'arpeggio. Ti ringrazio tantissimo. Complimenti. Ascolta, una domanda e una curiosità: ma la chitarra, hai usato una chitarra folk o una chitarra acustica? Una chitarra folk, cos'è, una trappola? No, perché dal suono un po' più metallico di alcune corde mi ricordava più la sonorità della classica chitarra folk. non è proprio un'acustica, è un pelo alla cassa, un pelo più piccola rispetto a quella acustica, a questo suono un po' più metallico, un po' più retro, come dico io, anche se non è così. No, comunque, a parte questo, complimenti, perché io da ex chitarrista apprezzo veramente. Bravo. Guarda, si tratta di, io vi ho, insomma, vi ho inviato questo MP3 perché si tratta di una serie di brani che tra il 2015 e il 2017 ho scritto in acustico. Come vi dicevo prima, è un po', diciamo, lontano da quello che di solito faccio, perché io sono musica ambient, ecco. Quindi, però ogni tanto mi va di scrivere musica in acustico e con testi, che di solito io sono musica strumentale. Di queste canzoni, che di cui molte sono rimaste dentro un cassetto, ogni tanto pubblico qualcuna su YouTube tramite dei videoclip, quindi sì, una di queste è appunto quella che avete appena mandato. Che, allora, non so come si pronuncia, perché stavo cercando di capire. Alshon. Oh, vedi, lo sapevo, infatti ero lì in dubbio, ho detto, sai, faccio dire a lui, perché sennò faccio una figuraccia. Va bene. Facciamo così, andiamo ad ascoltarci il prossimo brano. Allora, io ti indico le prime parole, così poi dopo lo pronunci tu. Allora, dovrebbe essere One Heroi. Però non so se si pronuncia. Un eroe. È una parola che devi pronunciarla come la legge. Va bene, on eroi. E poi dopo ti chiediamo ancora qualcos'altro. Che certo. Dall'accento abbiamo capito un po' la provenienza, però ce lo teniamo per dopo. Dai. E anche il significato, perché adesso lo vorrò sapere dopo. È vero. Thank you. questo brano era molto, non so come dire, vabbè, atmosferico, visto che comunque ci hai detto che la tua produzione base è ambient. Qua si sentiva un po' di ambient, cioè più che altro nei synth, ecco. Chitarra sì, anche sì, qua. Il brano è interamente suonato con la chitarra. I synth sì? che senti sono i suoni di chitarra modificati tramite effetti a pedale, ecco. Allora guarda, non abbiamo capito niente, perché noi eravamo qua a scervellarci dicendo vabbè, la chitarra va bene, poi avrà utilizzato dei synth per fare le parti AM, invece ci dici che sono riprodotti con la chitarra, allora sì, vale tutto, ancora di più tramite suonato tramite chitarra elettrica. Infatti puoi trovare su YouTube il video in cui proprio suono dal vivo questa canzone tramite appunto la chitarra elettrica. Non capito. Dopo lo posteremo anche sicuramente. È molto interessante. Ogni tanto vedere anche qualche video, qualcosa su YouTube dei brani mi piace. Ma io sono curioso, ma che cosa vuol dire il titolo? Il titolo è una parola greca e deriva dalla mitologia. In pratica gli oneroi sono i figli della notte e consistono appunto nei sogni dei mortali, ecco, sono gli dei che comandano i sogni dei mortali. Il più famoso è Morfeo, si dice tra le braccia di Morfeo, ecco. Certo. Morfeo è uno dei fratelli oneroi. No, io pensavo che era il dio del sonno. Sì, diciamo che è detto il modellatore, perché in pratica è colui che fa prendere forma al sogno, capito? Quanto siamo profondi, no, di Wolf Trips. Ascolta, ma non te l'avevo anticipato prima, ma non mi hai detto la tua provenienza, nel senso da dove vieni? Io vivo in Sardegna, vengo dal profondo sud della Sardegna, da una cittadina che si chiama Iglesias. Famosissima, più o meno vicino a Cagliari. Abbastanza famosa, dai. Sì, direi. Sì, non è sì. Famosa, dai. Tra l'altro abbiamo avuto anche molti altri ospiti dalla Sardegna che abbiamo passato e ci sono sempre piaciuti, tipo Sardinia Bass Legalize, che è un gruppo fortissimo. Conosco Alberto e presto collaboreremo insieme. Oh, bene, bene, bene. E quando fate il pezzo ci chiamate che lo metteremo su noi in radio, cioè. Assolutamente. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano che ho selezionato e poi dopo ritorniamo, così ci dai un po' di contatti per vedere dove seguirti. Ah no, ecco, una cosa che ti volevo chiedere prima di ascoltare il brano: ma tu fai anche questa musica la produci solo su internet o fai anche delle serate, non so come dirlo, perché non è che fai dei, cioè non so. Sì, io sono dal vivo principalmente con la chitarra tramite i loop, le loop station. Sì, suono spesso dal vivo poco in Sardegna, mi capita di suonare spesso in Italia e anche in Germania. Ho capito, E quindi però più sulla... Tu penso suonare più sulla musica ambiente. Diciamo che non è un genere da pub, ecco, quindi no, mi capita quello... suonare in festival o occasioni speciali, tipo sonorizzazioni di film, insomma, cose del genere, più ricercate. Allora, il prossimo brano, credo che sia non... però come faccio io adesso? È il brano che inizia con non, te lo lascio anticipare a te, non saprei pronunciarlo, sinceramente. Allora... intitola Non Poter Riposare ed mia rivisitazione di un, questo è un brano tradizionale sardo che appartiene alla musica sarda. Io diciamo ho fatto una sorta di remix ambient di questo brano, che è un genere folk diciamo completamente diverso dall'ambient, però ho provato diciamo ad unire questi due generi. Ok, andiamo ad ascoltarlo allora. È quello che ascolteremo, sì. Perfetto. Thank you. E in questo brano si sente tanto la tua natura più ambient, effettivamente. E sono curioso, adesso mi dovrò andare a trovare l'originale del brano, perché adesso voglio fare un confronto con il remix che hai fatto. Ah beh sì, l'originale è completamente diverso. Immagino, sì, no, intuivo. Qui siamo proprio molto sul, penso, cioè, l'hai studiato proprio a livello ambient questa rivisitazione, che non mi piace chiamarlo remix. Sì, diciamo che ho pescato da lezione di William Basinski, che è un grandissimo esponente della musica ambient contemporanea. Sì. Ho capito. Lui lavora molto con i nastri, io ho fatto qualcosa di simile con la musica tradizionale sarda. In pratica ho preso i suoni tipici di quel genere, li ho rallentati, li ho riempiti di riverberi e di echi, ottenendo appunto questo risultato. Ok. E ti voglio chiedere un altro po' di cose, nel senso, questi brani non hai rilasciati su etichette, net label o altro, giusto? Hai fatto solo delle pubblicazioni su YouTube, se non sbaglio. Sì, per ora ho pubblicato su YouTube delle esecuzioni live. Quella che noi abbiamo appena ascoltato è un'esecuzione live, avvenute appunto registrate in location speciali, come riprese in panorami della Sardegna, perché ho pensato, sto remixando la musica sarda e voglio che il video sia appunto riprenda un paesaggio sardo. Sì, si possono trovare, per ora ne ho pubblicato 3. Ok. In teoria dovrebbero essere 4, però poi non lo so, magari riuscirò a farne anche una quinta. No, ti dico perché tutto sommato ci sono parecchie, poi dipende uno cosa vuol fare, però ci sono veramente molte net label che probabilmente pubblicherebbero ad occhi chiusi questi brani, quello sì. Il problema è che poi, vabbè, sai, le net label, dipende anche uno cosa ci vuol fare, no? Nel senso, che obiettivi hai con i brani. Guarda, a me piacerebbe moltissimo la pubblicazione su vinile, molte delle net label purtroppo non lo fanno, per quello ho dovuto, ho già ricevuto alcune proposte, ma le ho dovute rifiutare, rifiutare purtroppo, perché vorrei proprio una pubblicazione su vinile. Ok, va bene, dai, lasciaci i tuoi contatti, dove ti possiamo ascoltare i tuoi brani, la tua musica, o dove metti magari qualche riferimento per qualche evento, non si sa mai, che magari ci capita qualche evento vicino e ti riusciamo anche a venire a sentire. Guarda, il mio veicolo principale per quanto riguarda internet è il canale YouTube, che in questi giorni sta per raggiungere 1 milione di visualizzazioni, e poi potete trovarmi su Facebook, su Instagram, che uso spesso, basta cercare per Frank e trovate tutto quanto, okay, si trova tutto quanto. Va bene, se Fabio, lo vedo lì, come dice, sta ragionando sulla musica, se non hai nient'altro... Stavo ascoltando, no, io faccio i complimenti al ragazzo, perché comunque musicalmente a me piace molto. Già, grazie mille. Musica semplice, bravo. Ma ben costruita. Semplice ma fatta bene, come dico io. Il troppo storpia nella musica, invece le cose fatte bene sono le migliori, secondo me. Va bene, noi ti salutiamo. Prego. E ti ringraziamo di essere stato con noi, magari ci sentiamo più avanti quando riuscirai a pubblicare qualcosa di nuovo, fammelo sapere, che ci sentiamo volentieri. Io vi ringrazio, è stato davvero un piacere parlare con voi e vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille, ciao. It is an historic day in Illinois. Look at the line of people waiting to be the first to buy medical marijuana. Marijuana, I love it, my brother. Marijuana in my heart. Marijuana in my soul. siamo tornati dopo le due interviste di questa sera, dai, diverse però particolari. Sì, proprio diverse tra loro. Diverse come musica, poi vabbè, comunque sono sempre artisti, uno più sulle net label, quindi più lanciate sul DJ set, sulla musica più live. Invece l'altro proprio, scusa, l'altro invece più sulla musica live, volevo dire proprio il contrario, ho detto la fesseria, anche perché ormai siamo nella parte quasi finale del programma, quindi c'è ampio spazio a... Adesso arriva la parte ignorante del programma. Perfetto, perfetto, direi che... Mi sento un po' come il Dottor Jack di Mr. Hyde. Sì, prima sì, ero sì, serio, sì. Adesso arriva il Beota. Vabbè, vabbè, comunque abbiamo ripreso anche adesso, nell'ultima parte dovremmo anche riuscire un po' a incrementare il beat di questa sera, che questa sera siamo molto tranquilli. Molto scialla scialla. Ma sì, infatti questo brano qua proprio siamo con lo scialla scialla, ecco. Cos'era? Il brano di Professor Skunk con Sensimilia, ah. Che però non so assolutamente, aspetta, vediamo se riesco a recuperare al volo di che etichetta è, ma non lo riesco a recuperare, forse sì, forse no, non lo so. Bravi, bravo. Bravo, bravo. No, Regga Wise l'etichetta. L'ho recuperata proprio l'avrei l'ultima. Intuito dal sound. Sì, sì, sì, sì. Che era Regga Style. Va bene, va bene, dai. Continuiamo con un po' di musica o vuoi No, andiamo un po' di musica. Che cosa adesso andiamo a ascoltare un pelino? Allora, adesso andiamo ad ascoltare il brano di Harrison Black Oldman con Retrospective, che è un brano che abbiamo già ascoltato ed è di un'etichetta molto particolare perché... sì, trova è un'etichetta... cioè, il problema non è che io ti dico sì, è un'etichetta molto particolare, però devo trovarla. Diciamo che è particolare, adesso andiamo nel dettaglio. Quando si dice che è particolare avrà qualcosa di... No, vabbè, su perché, ho, dai, su. Ho un motivo perché non sono preparato sui brani, sulle etichette. Perché comunque fare due interviste alla fine della fiera sembra una stupidata, ma in realtà comunque ti porta via un sacco di tempo, un sacco certo, di testa. Capisco. Comunque in realtà ho trovato tutte le informazioni. Eccolo qua, il dottor Domenico, il capitano. Nel momento in cui stavo parlando sono riuscito a fare due cose in uno. E praticamente l'etichetta è Soul Action, che è un'etichetta grande, molto grande di Los Angeles, e produce musica anche ad alti livelli. Oltre a distribuirne alcuni brani in modo gratuito, ha anche fatto delle produzioni con fisiche. Comunque il logo mobile è figo, cioè, sì, sì, sì, bello, cioè, bello, continuavo bello. A fissarlo, è bellissimo. Dovete andarlo a vedere sul sito di soulaction.com, si trova il logo, veramente bello, veramente bello. No, ragazzi, non ascoltate la musica, guardatevi il logo, perché è bellissimo. Ah, anche. Comunque, no, loro producono veramente moltissima musica, e noi avevamo già ascoltato questo brano, ma ve lo ripropongo così come, non lo so, i gnocchi al giovedì, non so, come cosa che si ripropone sempre. Tipo un passaggio di Roberto Baggio verso Giuseppe Signori nel 94. Ecco. va bene, va bene. Sì, allora ci stiamo riprendendo un po' col beat, però ancora non ci siamo. Diciamo siamo lontano ancora... dai canoni del, di Wolf Trips. Bravo, perché è ancora basso questo beat. Vabbè, no, vabbè. Intanto non lo sento che pompa. Volevo come si dice, rassicurare Giorgio che è tutto a posto, di non venire qua in radio perché mi ha mandato un messaggio. No, perché aveva avuto un po' di problemi col mix, quindi voleva venire qui in radio. Ah, chi è stato? No, è tutto a posto. No, pensavo perché risolto. Aveva visto col giubbotto tutta la puntata, aveva detto. Ma che sta succedendo? Che sta succedendo? No, fa freddo, Giorgio. No, vabbè, vabbè. Salutiamo Giorgio. Ciao, Giorgio. Vabbè, vabbè. E quindi, no, in realtà io ti ho chiamato come, diciamo, esperto musicale, ma anche esperto di informazioni utili e necessarie per l'andamento della nostra vita quotidiana, giusto? Da giornalista di Wolf Trips. Bravissimo, bravissimo. Quindi hai trovato qualche informazione interessante questa sera o... Vorrei fare una premessa, da musicista non valgo nulla, da giornalista meno. Tanto... che meno. Il livello diciamo che può essere questo. Penso che la mia professoressa di matematica adesso, come sente la radio, butta la radio dall'ottavo piano. Beh, comunque possiamo ricordare in realtà che ci possono ascoltare su Facebook, però non la musica, attenzione, non la musica, perché sennò qua vengono a prenderci, cioè ci arrestano. Possono ascoltarci dall'applicazione della radio, possono ascoltarci, certo, dai podcast, possono ascoltarci da, boh, non lo so, da dove vogliono, nel senso, però non possono ascoltarci dalla radio, quindi non possono lanciarla alla radio, al massimo lanciano il telefonino. Se no venite a Samarate direttamente, sì, tanto qua c'è spazio, venite tutti quanti. Tra l'altro, guarda, volevamo, giusto per rubarti spazio per le tue interessanti notizie, ho visto che a Gallarate c'è stato... A Gallarate! C'è stato un gruppo che si chiama la Corale Divertimento, mi sembra, che è andato a un famoso talent su Rete 8, l'ho visti. Ah, ho visto anch'io. E allora abbiamo pensato, un po' tutti quelli della radio, non solo nei Wolf Trips, di ospitarli. Però sono tanti, cioè ci stanno. C'è problema, due alla volta. Eh sì, che facciamo? No, numerino. C'è scegliamo... uno che distribuisce il ticket fuori. Noi scegliamo le ragazze. Io ho già deciso. Sì, vabbè. Va bene, dai, facciamo così. Non ti faccio dare le notizie adesso, perché andiamo a ascoltarci questo brano che dovrebbe un po' caricarci. E poi dopo, in realtà, preparati, perché ti interrogo sulle notizie importanti da dare in questi giorni. Bene, ripasserò. Ok, passiamo nel Messico, perché questa me la ricordo, che è l'etichetta Myrdal, che avevamo ascoltato già un po' di tempo fa. Questo brano che è un po' la mia vergogna, però a me piace. Ci posso fare niente. Io vorrei salutare gli amici del Messico che ho conosciuto 2 anni fa. Ho lasciato il cuore là. Ah, ecco perché sì. Adesso sei qua un po' spento, sì, stasera, sì. Come hai detto, Messico, mi si è riaperto il cuore. Ma noi, te l'ho detto, siamo international, quindi cioè, passiamo tutti i brani del genere. Quindi andiamo ad ascoltarci questo brano che è di Amaus, che è un ragazzo che sta producendo molta roba ultimamente. Il brano si chiama Mentiras. E niente, vabbè, andate ad ascoltarlo, poi me lo commenti dopo. Ok. Dime qué fue lo que sucedió. Tú te cansaste de dar amor. según tú cambiaste y esto murió. Nos fuimos y nunca dijiste adiós por tus mentiras. Stanno dicendo che era un pezzo della vergogna di Wolf Trips, però te lo ballavi, quindi vuol dire che tutto sommato il ritmo c'era. Stavo ordinando un mojito io nel mentre. No, ma qua più che il mojito, non lo so, cioè, non lo so, mi viene in mente quella canzone lì, no? Quella canzone lì. Ecco, sì, come è venuto il titolo, si può dire? No, ma lasciamo stare. Vabbè, l'avete capito anche voi. Infatti, no? È quella canzone lì. Però un po' più elettronica, un po' più. Cioè, quella canzone lì, un po' più elettronica. La capite subito, quella che l'anno scorso ha scartavetrato. Bip a tutti quanti. Quasi più del Pulcino Pio, pensa un po'. Sì, sì, il Pulcino Pio era arte a confronto. Quindi a livello di arte adesso dovresti introdurci le tue news. Siccome mi dicono sempre che ti vesti di merda, io ho scoperto che io che io sono all'avanguardia, perché stavo leggendo che la stilista, scusate, Jalila Esedi. Beh, non è importante, dai. Il nome diciamo, della stilista, è un genio questa ragazza. No, non è importante. Anzi, cara Jalila. Anche perché ha avuto un po' un'idea. No, ma Jalila, sei un genio, sposami direttamente. sono già innamorato di questa ragazza. Allora, chissà quanti soldi avrà fatto poi, perché guarda, prima ne ha tantissima. Sì, infatti. Allora, questa stilista ha pensato bene di costruire vestiti di merda. Ora tu dirai. Infatti. Brutti. Non è brutti. Una parola. No, non è quello. Lei ha proprio preso le feci della mucca. Ok. Le ha trattate, le ha lavorate e ha fatto dei vestiti. Ora io sto guardando le immagini. Sono anche vestiti che potrebbero essere anche di Dolce Gabbana e Louis Vuitton. Quindi non sono vestiti di. No, no. Quello che mi domando è l'odore. Cioè. No, ma magari sono trattati in qualche modo. Ho capito, però. Cioè. Sai cos'è? Non è tanto l'odore, è proprio cioè, l'idea, no? Dici. Sì, ma infatti nell'articolo di giornale, ma è anche un po' vecchiotto. Dicevano che la cosa è più difficile è la parte psicologica, perché sapere che è su della cacca di mucca dipende cosa ha mangiato la sera prima la Carolina. Beh, comunque diciamo che materia prima poi non gliene manca, diciamo anche abbastanza naturale. Certo, cioè, ma poi sai quanta ce n'è? guarda. Poi porta anche bene, sì, sì, sai sì. Che se la calpesti porta bene? Sì, ma io, anche se la indossi a questo punto, no? Certo, io la mattina quando vado in stazione, che ti raggiungo, le cerco tutte, perché poi la giornata non va bene, le cerco tutte per calpestare. È presente quei videogiochi dove devi saltare sulla casella giusta per se non cadi? Tu fai così? No, tipo, tu ricordi quello che c'era in Windows, Prato Fiorito? Sì. Bravo. Tutte le vado a cercare. Vabbè, comunque è una notizia interessante e carina. Quindi ragazzi, se vi vestite male, fregatene, perché c'è gente che paga per vestirsi di merda. Quindi caspita, con questa massima direi che andiamo a ascoltarci il prossimo brano e poi dopo vediamo se c'è ancora qualche altra informazione del genere. Va bene. We'll be right back. E poteva mancare nella nostra playlist qualcosa che venisse dalla Germania? Te lo chiedo così. E infatti non manca. Perché Nein. Praticamente questo è un brano di un'etichetta che si chiama Subbass. Infatti si sentiva che c'erano i bassi belli, belli tosti. Belli sub. E la città da dove proviene questa etichetta è Heidelberg. Che cazzo. Qual era la provincia? Sì. E questo, praticamente questa etichetta produce della musica molto particolare, perché loro si definiscono, fanno delle compilation, si chiamano Ethno Step, dove uniscono dei suoni etnici con sonorità molto elettroniche, molto particolari. Tipo questo qua è un po' un misto tra la dubstep e in teoria anche dei suoni etnici. Qua non si sente tanto, ma in alcuni brani ho sentito tipo delle... Sei presente quelle melodie tipo indiane, ad esempio tipo Bollywood, però mixate con, che so, musica techno, per dirti. E loro fanno questo tipo di... Questo mashup prodotto, nulla di... Cioè nel senso che non è che prendono un pezzo indiano, lo fondono a fondo di mashup, producono proprio musica del genere e hanno un buon risultato, anche un buon riscontro. Va bene, e intanto stavamo guardando anche un po', sai, bisogna anche un po' informarsi nel mondo cosa succede, cosa succede, no? Bravo. Infatti... Parti tu. Ti lascio l'onere e l'onore. Diciamo Tony sarebbe molto contento di te in questo momento. Bravissimo. Ah, salutiamo Tony. Adesso facciamo un po' di saluti. Mi manca il mio amico Tony. Cioè, stasera qua manca Tony e la Cristina. Sì, no, cioè, ma stasera c'è un vuoto. Mancano tutti. Io saluto te. Ciao Tony. Ma settimana prossima ci sono? Tutti. Ah, sarò io che arriverò in ritardo come al solito. Sì, vabbè, non c'è problema, lo sappiamo e boom, basta. Allora, no, tanto girando tra le varie notizie non verificate, quindi penso che siano un po' delle... Notizie. Notizie. No, ecco, sono le notizie. Allora, per errore, per anni, questo signore brasiliano, ha pregato davanti a una statuetta del Signore degli Anelli al posto di quella di San Francesco. Sì, no, effettivamente, ma scusami, ma era un ragazzo, perché io la sapevo questa, diciamo, notizia, e... ma dipende da quale figlio. In realtà la sapevo con la nonna, cioè la nonna che pregava San Pietro lì. Di un personaggio. Allora è proprio una notizia del... È un po' una notizia come il vestito di prima. Sì, non era San Francesco, scusate, Sant'Antonio. Vabbè, però cambia. La statuetta del Signore Anelli, penso che sia un elfo a vederlo. Ho presente questa notizia. Sì, perché ho visto la parodia del Signore Anelli, mi sembra che era l'elfo. Ok. Come guardava nel pulso. Ma era quello che veniva dalla barriera di Busto Arsizio? Bravo. Salutiamo anche Busto Arsizio, ciao. E salutiamo anche i Gemboiver, quella perla che hanno... Ma non erano quelli di Gallarate che hanno fatto quella roba lì? E chi è che erano? Non erano i Gemboy? No, erano dei ragazzi. Allora, per quanto lo sapevo, erano dei ragazzi della zona. Aspetta che mi parte. Bravo, ti parte la notizia. Allora, facciamo così, ascoltiamo il prossimo brano, così intanto ho il tempo di fare questa ricerca importantissima. E devo capire chi ha fatto la parodia del Signore degli Anelli. Ragazzi, noi per voi andremo a fondo a questa notizia. Cos'è che c'era? Aspetta, a parte Gollum, c'era l'isola... No, di Merdor. L'isola di Merdor. Vabbè, adesso andiamo a informarci meglio. Gandalf. Andiamo ad ascoltare questo brano della Mist Records. Il tizio che l'ha prodotta si chiama Olympic. Cioè, proprio ha fatto questo. Cioè, diciamo un po'. Mire megalomani. Megalomane. E il brano si chiama This Codec. Cioè, proprio dei titoli che manco il... Sì, è un po' come la notizia. Discotec sarà. Bravo. Thank you. E con questo brano siamo andati in discotec o discotec. E a ballare. Bravo. Ma ascoltami una cosa, ma hai trovato alla fine? Sei andato a fondo a questa notizia? Ebbene sì, tra l'altro ho rimembrato, diciamo, cose del mio passato più prossimo, prossimo. No? Cioè il passato più prossimo, cioè. Ma cosa sei, mamma aulico? Mia, ma si vede che sei la parte intelligente del programma. Allora, praticamente è lo Svarione degli Anelli, che non so se ve lo ricordate. Certo, lo ne ho visti degli... due io, eh. Tra l'altro hanno fatto anche un terzo titolo che è Il Padrino. E tra l'altro la notizia compare da Varese News, quindi loro sono molto vicino a noi, alla nostra realtà radiofonica. Corretto. E loro sono di Cavaria con Premezzo. Con permesso, Sì, so che erano della zona. Poi sai, tutto il mondo è Gallarate. Infatti. E hanno, diciamo che hanno introdotto questi grandi miti tipo Gandalf, Arabong o Condom e varie altre storpiature. E a me quello che era piaciuto di più effettivamente era poi la compagnia del Verginello del 2006. Quando fa, solo un vergine può portare l'anello. Ma che dici, nessuno è vergine? Poi si alza Frodo. Insomma, è stata una cosa divertente. Tra l'altro l'unica cosa brutta in realtà che leggo è che ormai loro tra virgolette si sono sciolti. Però per chi volesse approfondire, è interessante che continua a vedere, leggo sciolti, poi vedo sta pubblicità qua odiosa. Cioè veramente mi sta venendo il nervoso, vabbè. Allora diciamolo a tutti quanti, questa pubblicità, se avete problemi di udito o di cerume, dovete mettere il limone nell'orecchio. Ecco, questo metodo naturale migliora l'udito. Attenzione, potrebbe essere una notizia, infatti. Non siate così. Comunque, chiudendo il discorso invece sullo Svarione degli Anelli, esiste proprio il sito losvarione.org, dal quale potete guardare, / scaricare, / contattare anche gli autori di questa, diciamo, meraviglia. Io stasera penso che mi guarderò il terzo che mi manca. Io ti consiglio, giusto per chiudere poi l'angolo stupidaggini, di guardare in realtà la parodia, cioè, perché poi era un periodo, quello del 2006-2007, in cui uscivano i primi video su YouTube e venivano doppiati i film famosi, dal quale poi dopo c'era questa idea del Signore degli Anelli. Però a me ha fatto morire da ridere, me lo guardo ancora volentieri e ti consiglio di vederlo, il doppiaggio in barese dello scontro tra Ettore contro Achille. Ti giuro che fa morire da ridere. Cercalo su YouTube e guardalo. Va bene, sarà fatto. Ormai siamo quasi al termine, andiamo ad ascoltare... Penso che io... Devi fuggire. Sì, qualche minutino prima. Va bene. Bene, dai, comunque andiamo ad ascoltarci il prossimo brano, che è di Mr. Austin con Venus, che sa molto tipo di... Stiamo andando un po' sull'auseggiante. È molto sexy. 5, 4, 1 è finito il pezzo. Non è Capodanno, stavamo facendo il conto alla rovescia del pezzo. No, comunque te lo dicevo, fa molto house. Sì, sì, sì. 2003, 2004. In realtà è uscito nel 2018. Ah, dai, perché giovane. È un'etichetta, no, effettivamente è un'etichetta nuova, si chiama Omiak Records, che ogni tanto poi dopo mi scrive anche il produttore. E fanno questi brani house, a me non dispiacciono. Un po' anche per cambiare un po' il genere di musica, lo stile di musica. Quando avevo quei... È vero, è vero. 14 anni in meno. È vero, hai ragione, perché effettivamente lo stile della musica house è molto vecchio, nel senso come però in realtà loro sono effettivamente sono nuovi come produttori. Qua ci voleva Tony, che era esperto dell'house. Ti ricordi che ci aveva raccontato anche il perché del nome? Caro house. Vecchio Tony, il Tony. Ciao Tony, ciao, ci manchi Tony. No, adesso facciamo veramente i saluti. No, ce la fai a durare ancora qualche minuto? Sai, l'ultima volta che me l'hanno chiesto bene, io vi saluterei e direi che Wolf Trips stasera finisce qui, senza lode, senza infamia. Vabbè, dai, sono simpatico, su. Però guarda che ci potrà riuscire, l'ultima volta che me l'hanno chiesto ce l'ho fatta. Va bene, allora, se Fabio durerà ancora qualche minuto, ci ascolteremo il brano di Mirror con Transformator, ed è un'etichetta che ci aveva presentato Tony nella sua rubrica, come si può dire? Rubrica, che si chiama Zimmer 158.1, perché io non lo dico in inglese, non c'ho tempo, non c'ho voglia. Andiamo ad ascoltarlo e andiamo un po' sul tamarro, gli ultimi pezzi te l'ho detto che ci spostavamo un po' più sul tamarro. Qua siamo praticamente alla Love Parade di Berlino. Siamo arrivati lì. Tra l'altro stavo cercando un po' di informazioni su il sito, no, però sull'etichetta Zimmer, come si cacchio si dà, 158.1, non ci voglio tradurlo, dai, ci sarà una qua. Fine. Vabbè, dai, quello che cacchio che è. Guarda che lo sai che il mio inglese è uguale al mio. Sì, è periferia di Londra. A Manchester. E il brano era dell'artista Mirror, che detto così come l'ho detto io non è che suona benissimo. E il pezzo si chiama Transformator. Sì, è un brano tecno, dai, inizia in un modo e finisce nello stesso modo. E in mezzo mi piace molleggiare. Sì, beh, oppure sbattere la testa contro la cassa. Quello che puoi fare è quello. Tanto ci sono delle scure presenze in radio. Se vedete la diretta Facebook, c'è il coso Nair che lampeggia, vedi? Detto, succede Ring. Sì, e sì. Qua sotto ci sarà qualcos'altro. Poltergeist. Porca vacca. Ma senti che poi mi fa freddo. Che qua sul giubbotto, ragazzi, meno 4 gradi. Va bene, facciamo così. Allora, ascoltiamoci subito, subito l'ultimo brano. Così arriviamo poi in zona Cesarini, cioè verso le 10. Facciamo i nostri saluti e ce ne andiamo tutti felici e contenti a casa. Il prossimo brano, giusto per chiudere la serie dei brani tamarri strambi, e allora, il brano è di LSD, che è già tutto un programma il titolo. L'etichetta è Fedrina Net Label, che è sempre di sto ragazzo che cerco di contattare per intervistare, perché è italiana l'etichetta, ma non riesco mai, è rintracciabile. E il titolo è il telefono. Il titolo è, no, ma lo scrivo su Facebook. Ah, se lo scrivi. Lo scrivo su Facebook. Il titolo è strano perché insomma non ha senso. Cioè, il titolo è, allora, Sette negassi il negozio. Non so se è un dialetto, boh. Ma è un gioco di parole. Sarà un gioco di parole. Devo riuscire veramente a rintracciare l'autore, perché voglio sapere qualcosa in più sulla sua etichetta e sui brani che produce, perché mi dico, ma perché? Ma perché? Perché? Music.com. Clap your hands. Wall Street. I viaggi del lupo. E quasi con una precisione spaccata sono le 10, quindi per stasera chiudiamo. Poi in realtà, se ci volete riascoltare su Spotify, lancio solo Spotify oggi perché c'ho voglia di Spotify, potete riascoltare tutte le puntate, compresa questa, a partire dalla settimana prossima. Ma io stavo ancora ridendo perché ogni tanto guardo la diretta Facebook che è in ritardo di quello che facciamo qua. Quindi infatti, quando vedete, ma quel Pirla cosa sta facendo? L'ho già fatto, quindi non mi posso fermare. Non puoi cambiare la non puoi cambiare il tuo passato. Tra l'altro, io ridevo perché pensavo quando stavi ballando prima il pezzo, quello di prima. Io mi propongo sempre che voglio farlo, devo trovare il tempo di farlo. Devo prendere tutte le puntate che abbiamo fatto e tutti i miei balletti, i balletti o tutte le stupidate che abbiamo fatto. Dovrei riuscire a fare un video. Secondo me esce una cosa scandalosa, no, non bella, scandalosa. Ah, guarda che io come secondo lavoro faccio il ballerino. Ah, ok, ok. Guarda, sembrerebbe proprio così, cioè proprio con questo fisico prestante. No, vabbè, il fisico alla fine è solo un involucro, no? Diciamo. Ma c'ho il ritmo nel sangue. Senti qua la gamba, sembra un Bugs Bunny. Sembra quello di spumeggiante. Spumeggiante. Va bene, dai. Allora, facciamo i saluti, i convenevoli per stasera. Salutiamo i nostri due ospiti prima di tutto che abbiamo avuto, Claudio Iaccono, che nel frattempo mi ha anche inviato un suo brano nuovo, quindi poi me lo ascolterò lo per bene. Poi più avanti. Sì, non voglio spoilerarglielo. Infatti gli ho detto prima, fammi sapere tu quando puoi metterlo nel programma, perché sennò io, se mi danno un brano io tempo zero io lo già settimana prossima già in radio, sto ascoltando, già in radio, cioè. Invece no, io ho detto dimmi quando, poi dopo lo decidiamo. E poi ascoltiamo invece adesso, perché ho continuato a fare il giro di parole, quindi adesso mi sto confondendo. Giro di parole tra noi. Fred Perry. Perry, sì. Ecco. No, Frank Perry. Porca miseria, vedi, continuavo a dire questa parola e mi sono confuso. Frank Sinatra. Sì, Frank, giusto. Katy Perry, de fondo. Poi ovviamente potete riascoltare le interviste, tutta la puntata, se vi può far piacere, in podcast, nelle vostre cuffiette, mentre andate a lavoro. Io lo ascolto quando vado a lavoro, sì. o quando non c'è niente da fare in casa. Ma io ascolto per radio. Mentre poi sento le tue voci, le tue notizie, rido, quindi, cioè, Poi salutiamo qualche ascoltatore sporadico, sì, che abbiamo avuto. Allora, tipo, saluto perché mi hanno scritto e ho avuto piacere. Saluto il Sergino, il Davide, poi Mike non si chiama, Michele sarebbe. Buongiorno. L'ho sempre salutato così. Buongiorno. Poi vabbè, tutte le nostre donne fans, guarda quante sono, che sono là che bussano. Sì. Arrivo donne, non vi preoccupate. Vabbè, salutiamo i soci che mancano stasera, perché la Cristina, un abbraccio alla Cristina da tutti noi, anche da tutti quelli che ci hanno ascoltato, volevo darti un grande abbraccio, è ammalata. Sì, però cos'ha, si riprenderà. Cos'ha la nostra donna Cristina? Niente, la febbre, influenza, spero che non me l'attacchi. No, perché senza regista settimana prossima vogliamo il disco a vuoto. Infatti. E poi salutiamo Tony, infatti stasera mancava la sua rubrica. Salutoni. Facciamo dei salutoni. Mamma mia, quanto siamo simpatici. Mamma mia, mi faccio quasi paura. E abbiamo aperto una nuova rubrica. Sì, la notizia. La notizia. Che sarà super contento Tony poi di questa cosa, perché lui proprio piacciono in modo esagerato queste notizie qua, no? Va bene, dai. Chiudiamo. Non mi ricordo se abbiamo un ospite settimana prossima, però poi comunque lo pubblicheremo su Facebook. Salutiamo Katia. Abbiamo un'agenda fitta e impegnata. Che te credi? Salutiamo anche Katia, che sta gestendo sempre i nostri social vari e assortiti. Ciao, Katia. Quindi ci trovate su Facebook, su Instagram, su Twitter, su chi più ne ha più ne metta. E niente, noi ci sentiamo settimana prossima e ciao. Ciao. Io direi che abbiamo detto tutto, quindi ciao.